No, Kaufman dovrebbe essere 20, no? Allora, No, Maria siamo di qua, al... ma... No, Ah, ce l'ho segnato. siamo a Siman... Scusa, sì, c'è ragione. Siman, Kaf e il Seif Seifert. Het, sì. Dove stiamo, eh? L'ultima pagina proprio della Sì. Ha, quelli secondo L'ultima, blocco, sì. Questo è il diciamo. posto del... Quello è il posto del rammer. Il nuovo scalo. Allora, non c'è problema, eh. Allora, abbiamo Ma visto vaffanculo, il diamolo. Seif Zain la scorsa volta, il numero 9, che dopo aver fatto la Kazala, cioè la ripetizione della Midah, lo Shaliach Tzibur, il Kazan, non deve fare i tre passi indietro perché li farà dopo quando farà Del il Kaddish Kaddish. completo. Ok? Ah, Quindi Zingaballa, eravamo arrivati lì. non Fine c'è del bisogno di Kaddish. fare i tre passi indietro perché tanto li farà. Diciamo dopo in seguito, e quindi abbiamo concluso con questo qua. Adesso parliamo sempre della Kazara, cioè della ripetizione dell'Amida fatta da Shliach Zippur. Quindi Seif Het 8. Ci siete? Allora, Betanit Zippur in un digiuno pubblico, perché Tony mi ha sappiamo detto, che ci sono dei. qual è il tuo? Questa qua, Het. Io lunedì scorso Se ricordo io ho oggi fatto la domanda, portato, non mi ok, sembra no, che... abbiamo finito qua. Allora, Volete. Betanit Zibur, cioè un A chi digiuno eravamo pubblico. arrivati? No, l'ultima pagina, la Het. Avevamo Maria di Azain noi. Ok? Allora, sappiamo che una persona può fare, volendo, un digiuno volontario, diciamo. Qui stiamo parlando invece di un digiuno pubblico, cioè un digiuno istituito per tutti, come per esempio può essere il digiuno di Esther, o il 17 di Tammuz, o il 10 di Tevet. Beyesh bevet Akneset Asara Se mitanim umishlamim, se ci sono al Bet Knesset 10 persone che stanno a digiuno da tutto il giorno, Omer Ashaliach Zibur Besacharit Umincha Anenu, recita lo Shaliach Zibur, cioè il Hazan, durante la tefillah di Shacharit e Mincha, il brano di Anenu, che è il brano che diciamo durante i digiuni, Sì, Kodem niente, Refaenu, prima del brano di Refaenu. niente. Im ta'a, se si è sbagliato, velo amarò e non l'ha detto. Im nizkar kodem shamaret Hashem, se si ricorda prima di aver detto il nome di Hashem, il nome di Dio, mina beracha rofe chole, dice prima della beracha di rofe chole, choser beomer anenu u refaenu. Quindi torna indietro, dice il brano anenu e poi dice refaenu e conclude con la Berakah. Questo se non ha già incominciato a dire la Berakah e non ha già detto il nome di Dio. È una Ava, regola un po' di sempre che è questa, una regola che uno abbiamo già dimentica visto qualcosa. in precedenza. Se non si è arrivato al nome di Dio, ancora si può tornare Proprio indietro, ma se si è generica, arrivato al nome di proprio Dio, si conclude la di Berakah varie come abbiamo situazioni. visto. Più o meno sì, non è la regola No, proprio grosso al modo, 100%, ma ispira. l'abbiamo già visto. Aval lo nizkar ad leachar shamaret Hashem, ma se non si ricorda e ha già detto il nome di Dio, Gomer la Berakah Rofe Kuleamo Israel. Finisce la Berakah di Rofe Kuleamo Israel, come diceva giustamente Alberto. Beomer Anenu Betoch Birkat Shomea Tefillah. E dice il brano Anenu dentro la Berakah di Shomea Tefillah. Bechotem Shomer Tefillah Kemo Yachid. E termina la Berakah come se stesse recitando la Tefillah da singolo. Cioè, il brano Anenu, quando lo Shaliach Zibur lo fa durante la ripetizione, termina con un'altra Berakah che il singolo invece non dice. Prendiamo, se volete, prendiamo il Sidur, vi faccio vedere. Ecco qua, tanto. Allora, siamo qua, Refaenu. Il singolo lo dice qua. Durante la sua Amidah personale, diciamo, durante la sua tefillah personale, prima del brano Refaenu. Il Chazan, lo Shaliach Zibur, invece fa la Chazalah, fa la ripetizione. Quindi, no, scusate, il singolo lo dice dopo, il Chazan lo dice qua. Ok, poi abbiamo visto tutti i casi, se ancora non ha detto il nome di Hashem in questa Berakah, torna indietro, dice Anenu e ricomincia da Refaenu. Se l'ha già detto, invece va avanti e lo dice qua, dove lo dice anche il singolo, quindi dove lui l'ha Ah, detto in precedenza prima, questo si è ma detto la vera, si è si è detto già già il detto il nome. nome di Dio. Ma invece di concludere con questo pezzettino, Yatta quando sta qua, un Moshia, conclude normalmente come il singolo, cioè conclude qua e poi E va ricomincia da attacca qua, ok? sotto. Quindi fa come se fosse singolo, praticamente è uguale a quella del singolo, cioè di chi dice l'Amidah da solo. Quindi la at non questo qua sopra Gomera Berakhar fe kula Moisel Gomera nen vedo che birkat filla de hotter shamarte filla come yachide conclude la Berakhah come il sindaco ve im shechato gam sham se si è scordato anche là omrim le achar siyum at filla belo hatima e se si è dimenticato completamente anche in questo punto di recitare il brananenu allora lo dirà al termine della sua tefillah, ma in questo caso senza dire alcuna formula conclusiva, cioè senza alcuna, diciamo, berachat, tra virgolette. Quindi non dice né questa, neanche shomea tefillah. Ok? Quindi, come sempre, già abbiamo visto anche in altri casi, se non si è detto, non c'è l'obbligo di tornare indietro, ma si dice alla fine. Ok? Questo era per quanto riguarda il brano di Anenu durante i digiuni pubblici, ok? Uno Shaliach Zippur. Adesso stiamo parlando sempre della Chazara, della ripetizione, e En Omrim Tefillah Shemona Esrei Bekol. Non si dice la Tefillah della Shemona Esrei, cioè dei 18 brani, cioè scusami, letteralmente la Shemona Esrei vuol dire 18 brani, ma sappiamo che sono 19 perché è stato aggiunto uno in seguito. Non si dice ad alta voce, Ella imken yesh lechol a pachot shisha anashim, se non ci sono almeno sei persone in grado di rispondere. Quindi facciamo tutti l'amida da singoli, cioè a bassa voce, belakash, come si dice in termine tecnico. Comincia il Hazan la ripetizione, Hazan non può cominciare se non ci sono almeno sei persone in grado di rispondergli. Se sono 10 giusti. Se sono 10, anche se sono di più, ma se non ci sono 6 giusti che possono rispondergli, non puoi cominciare a dirla. Ok? Shem Rob Minyan, cioè la maggioranza del Minyan. 6 persone sono più del Minyan. Sheit Palel Atta, in quel che pregano, Sheit Palelu Atta, che pregano in quel momento. Aval, Imen Shishana Shim Sheit Palelu Atta, se non ci sono 6 persone che stanno pregando in quel momento. En omrim kol hashemuna esrei bekol. Non dice l'amidà ad alta voce. El echad omer ad ael hakadosh bekol. La dice soltanto se, questo è un altro caso, per esempio, se le persone stanno facendo proprio un'altra cosa, non stanno facendo l'amidà, ok? Stanno facendo, diciamo, stanno un altro pezzo, stanno un altro punto, magari, o magari stanno facendo l'amidà, ma ci vuole tanto e quindi sono impossibilitati nella risposta. Lui non dice tutta la ripetizione, la casarà dell'amidà ad alta voce, ma dice soltanto fino a El Hakadosh ad alta voce, quindi i primi tre brani, ovviamente compresi di Kedushah. Non ho capito in Chiedo che scusa, caso però questa. chiedo scusa. Rifaccio, Omrim Kedushah Begomer. E quindi e conclude con la Kedushah e poi dice tutta la tefillah a bassa voce. Davide, scusa, Vai. guarda un attimo il 2 e la differenza fra 2 e 9 che stiamo facendo. Il 2, quello che abbiamo già fatto. Sì. Allora, vediamo subito a parte. Quando qualcuno si può No, non devono avesse rispondere pregato. almeno 9 persone, devono esserci almeno 9 persone a rispondere. Sei sicuro che è il 2? Sì, 2 di 12, capitolo 20, Perché il 2 è 2. quando l'emissione si può considerare o ne stai prevedendo No, forza forse il maggiore. 6 è che possono, no, che gli altri non stiano facendo la loro tefilà, non possono rispondere. 6, Come se non ci sono le persone, la preghiera è mica specie forse d'alta voce. non lo so. Allora, Questo è 21. in posizione, in tempo ci sta. Quindi qua. Ma è indispensabile che ci siano proprio 9 persone, però c'è scritto nel spunto in quanto. Il 9 l'avevamo detto anche 3 volte, che aveva sempre detto il rabbino, perché se il Minyan è giusto, è giusto. devono essere nove almeno gradi. Uno è l'ufficiante, quindi tutti gli altri nove devono essere disponibili. Perché prima si diceva 6? No, no, è il contrario, cioè prima dice 9 e poi dice 6. E poi dice 6. 6 se gli altri fanno altro. Fai conto che 4, che 3 stanno facendo, sono indietro di tefilà. A meno che non va anche in base alla proporzione delle persone. No, che sei lui che adesso in facendo... questo caso sta parlando con 10 persone precise. Esatto. Okay. Se tre di queste stanno facendo una tefilà retrata, che sono indietro, sono per conto loro, non possono rispondere, almeno 6 però devono essere in grado di rispondere. Adesso. Devono essere al passo con la tefilà. Ok, è sì. Okay, ma è così, no? Aver capito. Sì, praticamente se siamo 10, però almeno 6 devono pregare effettivamente. Insieme con tutti. Certo. Se 3 stanno facendo per conto loro. Proporzione. E questo era. Sì. Se 3 stanno facendo per conto loro. Questo sicuramente, stiamo parlando proprio che magari sono in ritardo al tempo e stanno un altro... 6 su 10. Esatto. Tutto qui. Sì, ma il concetto è anche prima, era anche prima parlava di questo caso. Non neanche la preghiera se non sarà almeno 6. Qui, come dice giustamente, forse non l'ho sottolineato, stiamo parlando di persone che non stanno proprio facendo la midà in quel momento. Infatti c'è scritto proprio Shemit Palel At, cioè non stanno pregando in quel momento. Hanno già pregato prima o stanno indietro. Pregando per conto loro, okay. In quel caso invece stavano facendo tutti la midà, stanno tutti allo stesso punto della tefillà, quindi stavano facendo tutti la midà, ma loro ancora facevano la midà da singoli. E invece Hasan aveva già finito, lui non poteva fino a che non arrivavano 9. In questo caso lui può anche aspettare all'infinito, ma se loro l'hanno già fatta non arriveranno mai a quel punto. Quindi ne bastano 6 in quel caso, ok? Cioè nel nostro caso, non in quel caso. Scusa, stavi dicendo che non ho capito il caso in cui inizia la ripetizione ma si ferma a Kadosh. Sì, in questo caso. Il caso. In questo caso, non ci sono le persone, per esempio hanno già fatto la midà, per esempio, oppure sono... Non ci sono manco i 6? Non ci sono, sì. Ah, ecco questo, ok. Perché questo, perché si fa ciò? Per evitare di non fargli dire amen, ok? Certo. Perché sappiamo che quando si dicono ebrachot il pubblico deve rispondere amen, ma se loro sono impossibilitati perché stanno un altro pezzo, sarebbe inutile fare la tefilà ad alta voce e fargli dire amen. Cosa che non vale per la kedushah, che uno ha l'obbligo comunque di rispondere ai lakadosh, ok? Quindi la si fa ad alta voce, quello si ferma. È giusto, ma nemmeno 6 possono, per qualsiasi motivo, sono al passo, diciamo. Può capitare, capito? Loro hanno già fatto. L'ufficiante per conto suo o quei 2 che ha intorno... Supponiamo se erano 6 persone, hanno cominciato... Supponiamo se erano 4-5 persone, hanno già incominciato a fare la tefilà perché pensavano non ci fosse Minyan. Poi Minyan arriva e loro la Midà l'hanno già fatta. Sì, però in possono quel caso contare non si ripete per niente così, come abbiamo fatto oggi. Che cosa? No, si ripete. Allora poi arrivano 10 persone. Cominciano a dire tutto, ma loro la midà l'hanno già fatta. Ci sono 10 persone. Ah, lui le 10 persone ci sono, ma hanno già pregato e ancora devono pregare. Qualcuno di loro, tu certo, dici non lo tutti stesso, le prime 3 berachot e la kedusha. Questa è una regola proprio generale. E poi la ridici per se c'è qualcuno che ha già pregato, può se contare sono, con me. Ma fanno altro, ho capito. Domanda questa. La presenza per il mignano, per dire la kedusha c'è, allora tu dici le 3 preghiere prima e dici kedusha. Chiederemo poi al Rav meglio, però è una regola generale. Per esempio, capita spesso anche che dice: ma tu hai già fatto tefilà? Sì, ho già fatto tefilà. Quello può contare come minyan o no? Conta. Però ci devono essere almeno 6 persone che non hanno pregato. Ok, 4 possono aver già pregato, possono aver già fatto la midà. Però contano e rispondono a men, rispondono a kaddish, eccetera. Ok, questo è proprio questo caso. Cioè qualcuno l'ha già fatta. Oppure sta talmente tanto indietro, è arrivato tanto il tempo che non potrà riuscire a rispondere, eccetera. Allora... In quel caso ne bastano 6. In questo caso invece, nel caso come dice giustamente Leo, erano tutti insieme pregavano. Sì. E quindi tu devi aspettare che loro finiscano, certo, anche perché certo. Possono finire, diciamo, hanno la possibilità di finire. Allora, poi, quindi, diciamo, dice la... Concludiamo, ripetiamo la conclusione. Fa fine all'Hakadosh, diciamo, conclude con la Kedushah. E poi continua tutta la tefilà a bassa voce. Ok. Poi, Seif Yud, 10. Col makom, shiyachid imtah ozer mitpalel. In tutti i casi che il singolo si sbaglia, torna e rifà la tefilà. Stiamo parlando del caso in cui ha finito la tefilà, si è accorto di aver sbagliato qualcosa, la deve ridire. Sappiamo che ci sono dei casi in cui se sa sicuramente di aver sbagliato, in certi punti, per esempio mi viene da pensare a Mashibaru, a Kumurita Geshem, eccetera, torna indietro e le rifà tutta. Adesso ci domandiamo, ma vale lo stesso per lo Shalich Zibur? Vale lo stesso per il Kazan? Se sta durante la ripetizione e sbaglia, che deve fare? D'altronde lui l'ha già fatta, vale lo stesso la regola? Che mo ken Shalich Zibur be Kazala Tatfila. Sì, vale lo stesso per lo Shalich Zibur durante la ripetizione della Tefila. Imta Hoser Mitpalel. Se si è sbagliato, allora torna indietro e riprega. Ma Chutz al di fuori di Mishacharit Shel Rosh Kodesh ve Chol HaMoed, all'infuori della Quindi Tefillah salta. di Shacharit, del giorno di Rosh Kodesh e del giorno di Chol HaMoed. Perché, andiamo a vedere, se Im Shacha Belo Amar Yaleb Yavo, se si è scordato di dire il brano Yaleb Yavo, che è il brano che si aggiunge quando noi diciamo, per esempio, quando è per esempio Rosh Kodesh, cioè con la Moed, quello che diciamo durante le festività, Beloni scad ad Celeshim Tfilah, e non se ne accorge finché non ha concluso tutta la Tefillah, en manchrisin otto, non ricomincia, in questo caso non torna indietro per ridirla, ki mishun Torah Hatzipur, perché potrebbe creare, questo qua è un termine tecnico, si dice Torah Hatzibur, che significa un disagio per Un il pubblico, un disturbo. disturbo, un disagio. Perché questo succede? Perché non deve tornare? Sì, dice, crea un disagio per il pubblico, ma lui alla fine si è comunque scordato un pezzo, non sarebbe più giusto tornare indietro? No, perché Samchinan al-Mashi Yaskir Tefillah u-Musaf, perché il concetto è che si ricorderà che è festa alla Tefillah dopo, quella di Musaf. Si dice tanto il pezzo, si dice qualcosa che santifica la festa, Sì. quindi non c'è bisogno di tornare indietro. Il tornare indietro creerebbe solo un disagio per il Per pubblico. E lui poi, come solo. diciamo prima, d'altronde lui l'ha già fatta e magari l'ha fatta giusta, anzi, sicuramente l'ha fatta giusta. Cosa che però non vale per il singolo. Aval, ma imniskar kodem she shlim tefillah, se se ne accorge prima di aver concluso la sua tefillah, allora hosel lirze ben bazè. Torah Hatzipur. Allora in quel caso torna al brano di Rezé, fa il brano di Rezé, dice Yaleb Yavò, in quel caso l'aggiunta per le feste e il Rosh Kodesh, in quel caso dice non c'è Torah Disturbo Hatzipur, non c'è perché è il la sua disagio per che il sta pubblico. dicendo, E, no, no, diciamo non ha concluso la Tefillah. Lui è arrivato che sa, un modim, un altro sì. pezzo così, ovviamente c'è sempre la regola che devi concludere i brani, non Certo, puoi non lasciare un brano a metà, ma in quel caso torna indietro, anche perché se ci pensi sono solo tre versi. Se il pubblico si risente tre versi, non penso che gli crei questo grande disagio. Se quindi non ha conclusa tutta, non l'ha finito, allora in quel caso torna, lo dice e poi ridice gli ultimi tre versi. Ok. Poi, Chiyuv al-Adam lomar kedushah im mazibur. È un dovere di ogni persona dire la kedushah insieme al pubblico, diciamo. Begam amen shel Ahar Ael HaKadosh e anche Amen dopo il brano di Ael HaKadosh che sarebbe il terzo brano della Amidah. Beshile Ahar Shomea Tefillah e anche dopo Shomea Tefillah, anche il brano di Shomea Tefillah che è l'ultimo dei brani di richiesta se non sbaglio, quindi dovrebbe essere sedicesimo. Ugam Ken Kiyub Kemo Kedushah e allo stesso modo ovviamente è un obbligo rispondere alla Kedushah. Bekken Akadish Shomer HaShaliach Tzibur e anche i Kadishim che dice lo Shaliach Tzibur, Kiyubu la Anot Aleem, è un obbligo rispondere. Quindi Yesh Mera Ba, puntini puntini, ho obbligo di rispondere a tutte queste cose che abbiamo citato. Bekken Bemodim U Kiyub Liskot Imatzibur e anche nel brano di Modim, che invece è il brano di ringraziamento, che abbiamo gli ultimi tre brani finali di ringraziamento, è un obbligo inchinarsi insieme al pubblico, l'abbiamo già visto qualcosa di simile anche nei brani precedenti, nelle puntate precedenti. Velachen im nitacher belo le bet hakneset, se uno dovesse essere arrivato tardi al bet hakneset, beofen shenoya kol itpalel mitzbur e arriva nel punto, cioè nel senso, arriva in un punto in cui comunque non riuscirebbe a pregare, non riesce a fare la metà insieme al pubblico. Abbiamo visto che ci sono dei pezzi che lui può saltare per arrivare a fare la metà con il pubblico, perché È molto importante fare l'Amidah insieme allo Zipur, ma lui non ci è riuscito perché è arrivato in un punto in cui non poteva riuscirci. Be'u ila anot echad mi devarim, no scusate, be'u mukrach litpael be'chiduk. Allora lui è obbligato a pregare da solo, perché? Im en asha'a overet, perché c'è paura che passi l'ora della tefillah. Quindi si sta facendo tardi, potrebbe passare l'ora della tefillah e quindi lui potrebbe non fare la tefillah e allora deve farla ovviamente da solo. Sarich le asghiach, deve fare molta attenzione. Se loit palel shmona esrei, a non fare i brani dell'Amidah. Besa'a, siya sid, milano, techad, mi devarim, elu. Cioè deve stare molto attento a non incominciare l'Amidah quando il pubblico sta in un punto che lui potrebbe rispondere amen. Per esempio, lui comincia l'Amidah, il pubblico sta facendo un Kaddish, deve stare molto attento, non può cominciare l'Amidah in quel momento. Aspetta che fanno il Kaddish. Infatti c'è scritto qua, Ella yatmin ad sheyaneh. Yamtini. Yamtin ad sheyaneh. Deve, diciamo, aspettare, che deve rispondere e aspettare. Beakarkach, dopo di ciò, itpaler shmona esrei, e dopo di questo fa l'Amidah, quindi cerca Dish, non cominci l'Amidah, aspetti che dice Amen, Yeshe Merabah, e poi dopo, se cioè, non ci sono pezzi in cui devi rispondere Amen, in cui non è obbligatorio rispondere, allora puoi Cioè, devi incominciare capire dove stanno, l'Amidah. se sente che manca poco un Kaddish, aspetta 10 secondi Avevamo e fatto comincia. sempre qualcosa Cioè. di simile nei Seif precedenti. E se il Kazan parte prima che la gente ancora deve finire tefillà e deve far Kaddish, perché c'è chi sta di settimo, deve far Kaddish? L'aveva visto le puntate di quella là? No, e tu non so se mi hai capito Sì, il io ad Kazan. Tempio Maggiore. Ci sta chi sta di settimo, Sì. sta dietro alla preghiera Sì. perché non ce la fa. Ormai il Kazan parte, Abbiamo lui non visto qualcosa. c'ha, ma loro non, lui non c'ha probabilmente né il Minyan mentre fa il Kaddish, o non dice il Kaddish. Giovedì abbiamo letto una cosa simile. C'è scritto che il peccato ricade sul Kazan. Sì, Kazan. ma questa è una cosa che bisogna far capire ai Kazanim Soprattutto che quando sei stanno, 10 persone ecco. precise. Non Tante volte solo pure capita. 10 persone precise, anche In quando c'è il generale. Minyan e chi sta di lutto, chi sta, deve, Ha c'ha la bisogno di tempo. necessità di far Kaddish, lo devi aspettare. Te non puoi andare avanti. O dovresti, vabbè, ma questo qua è. Vabbè, questo Ma se non questa qui arriva molto riguarda. tardi, come si fa? Ma questo riguarda Lui dice che il lui sta Kazan. parlando del caso di una persona che è arrivata puntuale ma non riesce a Non stare dietro c'è, alla non metà. c'è. Cioè, in Fa quel fatica a tenere il caso passo, certo. ci vuole un'accortezza E del la stessa Kazan. cosa della Questa. Amidah, aspetti che tutti finiscono. Questo, come tutte È le cose, va del uguale. buon senso, perché Buon la senso, regola giusto? poi è. Certo. Perché Donà, poi la regola sbaglio? di chi è del lutto del Kaddish c'è la No, lui regola mi ha di tutti. capito. No, ho capito Ma bene, ho io ho capito. capito, Lui ma la ci vuole responsabilità è del accortezza. Kazan. Non lo Esatto. so, E ma chi non gli fa allora presentare io. Ma Kazan a che noi tu non devi ci aspettare guarda, riguarda che. il Kazan, sono cose dei Sì, però rabbini. lui Vabbè, dice, lui se si dispiace, riesce a farlo ovviamente. capire o da mettere, a dare il messaggio, è meglio per la persona. No, Cioè, ma anche perché, teoricamente per non dire tanto è le nuove colpa sua, persone che appunto, rispondono a capito? me, ma cioè, tanti vanno di corsa allo spagnolo. Cioè, Se vai dai capito. Tripolini corrono come matti. Però lui dice, se c'è qualcuno che sta di lutto e viene al tempio perché sta di lutto, Certo. Lo voglio devi dire, a rispettare. maggior ragione Ma è bisogna chiaro. essere un'accortezza generale Che in quel devi caso. fare? Devi dire alla Kazan, aspetta. Gli devi dire, blocca, frena. No, ma è lui che Qualcuno. non dovrebbe proprio partire. Appunto. Vabbè, ma lui lo saprà, eh. Dovrebbe Se è un sapere. Kazan. Capirai. Andiamo avanti, Tu dici, chiusa allora non lo fai parentesi. tu. C'è un caso, però c'è La un'eccezione, colpa è di Aval, Donato. ma Donato è tuo la colpa, è siamo, di se Alberto. volete seguire, siamo alle ultime parole della terz'ultima riga. Aval, Aliatmin, Ben Gal, Israel, et Filash, Mona Israel. Non Ma no, Yatmin, Yamtin. Yamtin, sono un Tu po', c'hai e le questa al giro, contrario, le dici. giro, dico Sì, prima a te. diventato. Non si aspetta tra il Gal Israel, che è la Berakah, subito prima dell'Amidah e l'Amidah, per un concetto che abbiamo già visto, de Azarich, le Asmin, stavolta, No, però le le Asmin, Asmik. No, questa volta è giusto. che Ulalet Giusto, fila, non si è separa, non giusto. si separa, Le Asmik, che vuol dire le non si Asmik? separa, non si separa, non si stacca. diciamo, di fare continuamente. Geulà e Tfilà, non si separa il concetto della redenzione, quindi della Geulà, dalla Tefilà, ok? Quindi si va via... Anche questo abbiamo fatto. Beassur, Leafsik, Beneem. È vietato interrompere tra di esse. È la Yamtin. Si può aspettare. Kodem, Shirah Hadasha. Si può aspettare di Shirah Hadasha, che sarebbe 3-4 righe prima della Berakha di Galizel, subito dopo. Moshe ben Ezra Khan usha besim kharaban mulqa mika mukhabilan uscirà la shag lut khasnadim limut e poi si arriva alla Berakha, quindi è qualche riga prima, si può. Sì, qualche riga sopra prima di Shirah Hadasha, quel pezzettino, allora si può aspettare in quel caso, magari, okay. Giusto per guardarsi intorno e vedere se c'è Minyan, sì. Per regolarsi, dici si aspetta un attimo, vede a che punto sta, c'è un Kaddish però lì, ma non dopo che l'ha detta, perché... No. Se si va avanti, allora si continua e parte con l'Amidà, perché abbiamo visto che è molto importante non separare questi due concetti fondamentali, e l'abbiamo detto in precedenza, vale lo stesso per la seconda Berakha e lo Shema. Facciamo la Shacharit, facciamo due Berakhot prima dello Shema, tra la seconda e lo Shema anche non si interrompe. Stessa cosa qua, tra Galizel e l'Amidà non si interrompe, ma ci ha detto Rav Shalom le scorse volte che invece la stessa cosa non vale per Arbit, anche perché ad Arbit si dice sempre Galizel, ma dopo c'è il Kaddish, c'è un altro brano, quindi in quel caso si può interrompere. Ovviamente non per fare una chiacchiera, ma per rispondere Amen. Qui stiamo parlando anche proprio nel non rispondere Amen, c'è cose importanti in cui siamo obbligati a rispondere, ok? Qui non si dovrebbe rispondere neanche Amen. Ovviamente, quindi si fa in modo di non essere a quel punto in cui si dovrebbe rispondere Amen. Cioè, se si dovrebbe rispondere Amen, si cerca di non essere là. Concludiamo qua? Sì. Concludiamo qua. Thank you very much.